Terza posizione, stava preparando un dossier sulla vera natura politica di Valerio Fioravanti, dell'ideologo di Ordine Nuovo Paolo Signorelli e di Avanguardia Nazionale, la formazione di Stefano Delle Chiaie. Lo ha confermato l'ex militante di terza posizione, Mauro Anzaldi, sentito come testimone nel corso dell'udienza del 17 ottobre dalla Corte d'Assise di Bologna, davanti alla quale si sta celebrando il processo a carico dell'ex NAR Gilberto Cavallini, accusato di concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione. Anzaldi oggi ha 61 anni e dal Fuan di Torino nel 1979 confluì in terza posizione, senza tuttavia rivestire ruoli apicali e dopo il suo arresto scelse di collaborare con la giustizia. All'interno dell'organizzazione neofascista Anzaldi, che nel 1984 agli arresti domiciliari su queste vicende scrisse con Paolo Stroppiano un memoriale, aveva un compito preciso: aiutare i neri che, inseguiti da mandati di cattura, dovevano espatriare in Francia tramite i valichi alpini, in particolare attraverso la Val di Susa e il Molginevro. Nelle sue mani si mise anche uno dei leader di terza posizione, come Gabriele Adinolfi, in fuga verso Parigi, oltre a Stefano Soderini e a Walter Sordi, questi ultimi due poi confluiti nei NAR, i nuclei armati rivoluzionari di Valerio Fioravanti, condannato con Francesca Mambro e Luigi Ciavardini per la strage alla stazione di Bologna. Sempre nella veste di esperto conoscitore delle strade verso la latitanza d'Oltralpe, a lui fu affidato il rientro in Italia di un altro ex militante di terza posizione dei NAR, Fabrizio Zani, e gli venne chiesto di far scappare anche l'attuale imputato Gilberto Cavallini. In forza del suo ruolo, Anzaldi si trasformò nel destinatario di confidenze da parte dei vertici della sua organizzazione. Pur essendo un quadro intermedio, non avendo voce in scelte politiche e strategiche, riusciva così a sapere dettagli che riguardavano i più importanti personaggi e le intenzioni delle realtà terroristiche di riferimento, compresa la volontà di diffondere il dossier compromettente per il capo dei NAR. Ma che cosa avrebbe dovuto contenere questo dossier a proposito di Valerio Fioravanti? Doveva essere un documento chiarificatorio sul mondo della destra di allora, ha detto Mauro Anzaldi davanti alla Corte d'Assise presieduta da Michele Leoni. Un mondo che vedeva contrapporsi una destra composta da nuove generazioni che volevano affermarsi politicamente e un'altra, una vecchia destra collusa con certi ambienti. Due episodi nella ricostruzione del testimone ruppero una volta per tutte qualsiasi possibilità di dialogo tra i due fronti. Il primo fu la strage di Bologna e il secondo l'omicidio di Francesco Mangiameli, responsabile di terza posizione in Sicilia, ucciso il 9 settembre 1980 da un comando dei NAR di cui facevano parte, tra gli altri, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, i quali, come movente, hanno sempre fatto riferimento a una somma di denaro sottratta dal neofascista siciliano, nonostante fosse destinata a finanziare l'evasione dell'ordinovista Pierluigi Concutelli, l'assassino del magistrato Vittorio Corsio. Indicato come informatore del SISE, Mangiameli in realtà sarebbe stato giustiziato per un'altra ragione. Nelle sentenze per la strage di Bologna si legge che infatti la vittima è nelle condizioni di conoscere fatti e circostanze estremamente importanti in relazione alla strage. Ma ancora prima, già in un volantino di terza posizione diffuso subito dopo l'omicidio, si accostava il delitto alla bomba del 2 agosto 1980, definendo Mangiameli addirittura l'85esima vittima. I morti di Bologna, nel momento in cui il volantino veniva distribuito, erano ancora 84. Del delitto a Mauro Anzaldi parlò Mauro Zani, colui che avrebbe sostenuto, tra l'altro, di conoscere la vera storia del massacro di Bologna. L'identità di questa persona, però, al testimone non fu rivelata. Zani affermò pure che le questioni economiche avrebbero anche potuto contribuire all'eliminazione di Mangiameli, ma confermando quanto Anzaldi disse a verbale il 28 dicembre 1984, probabilmente non era quello solo il motivo. La vittima aveva scoperto qualcosa sulle attività del suo assassino. Che cosa? Dalla lettura dello stesso verbale emerge un comportamento politico di Fioravanti definito poco chiaro. Ancora Zani e poi Gabriele Adinolfi aggiunsero, confidandosi sempre con Anzaldi, che il capo dei nuclei armati rivoluzionari aveva assunto una doppia posizione, da un lato con i NAR e dall'altro aveva stretto rapporti con il gruppo composto da Paolo Signorelli, che sarebbe stato in contatto anche con Gilberto Cavallini, e attraverso Signorelli Fioravanti sarebbe entrato nell'entourage del criminologo nero Aldo Semerari, di Licio Gelli e della P2. Sempre a questo proposito si è parlato di tre incontri in un ristorante. L'altro leader di terza posizione, Roberto Fiore, oggi ai vertici di Forza Nuova, è stato a lungo latitante in Gran Bretagna e con Adinolfi finì proprio nel mirino di Fioravanti, che dopo aver tolto di mezzo Mangiameli voleva uccidere anche loro. I rapporti dunque erano tutt'altro che distesi e Fiore riferì ad Anzaldi di essersi accorto dopo l'omicidio Mangiameli di chi fosse davvero Valerio. In base alle sue parole, Fioravanti venne coinvolto in trame nell'ambiente della P2 e Fiore era in grado di screditarlo. Nel dossier che terza posizione voleva diffondere, si intendeva infine ribadire che Fioravanti sarebbe stato il braccio armato di Signorelli e della realtà che c'era dietro di lui. Peccato però che se quel dossier voleva rompere con ambienti agenti collusi dell'estrema destra, sia Gabriella Dinolfi che Roberto Fiore, fossero in contatto con il principe della precedente generazione di terroristi, Franco Freda, ritenuto il responsabile della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Avveniva attraverso la sua casa editrice, le Edizioni AR, aggiunto Mauro Ansaldi.